se ne va in do rumore chi fatica se notta stretta per chi dormì che non lo che non riesce a capire notte chi fuma perché ho tempo da passare notte chi sa regrere non sa ne porta ricezioni su te chi fai gar tu e chiarinda chi più cru notte non da dormire a chi se vombre a ca notte che fai notte che fa e se sto giorni a chiama aspettare notte chi sta avanzando a te e chi se vede e chi invece non ha saputo niente notte chi sa con te ma non si fa portare notte chi venne sempre